thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a string of love. This is not really, this is not really happening. Ciao a tutte e ciao a tutti, in questa nuova puntata dei nomi delle cose affronteremo vari argomenti. Vado a fare la scaletta della puntata di oggi. L'apertura la vogliamo dedicare a una notizia che viene dal Messico. La prima parte invece riguarderà la lettura femminista dell'esistente e la presenza della lotta femminista nelle altre lotte. E poi ci sarà alle 20.30 la parentesi di Elisabetta, che quest'oggi si intitola Oltre. E nella parte invece di approfondimento, che inizia subito dopo, parleremo della nostra partecipazione all'iniziativa di 10 giorni che si svolgerà al Lucernario Occupato dal 20 marzo, intitolata BAP, storie di trasversalismo tra genere e lotte, incontro di dibattito sulla sessualità negli anni 70. Questa ovviamente è la nostra partecipazione, invece l'iniziativa è più larga ed è appunto una rassegna sulla controcultura e sull'antagonismo. Ciao a tutte e ciao a tutti, come vi dicevamo oggi apriamo la trasmissione con una notizia che viene dal Messico e riguarda una donna che dopo aver subito uno stupro ha ucciso il suo aggressore. E c'è un articolo che dice Terra di Ciudad Juárez, terra dove quest'anno si contano 75 donne uccise, femminicidi impuniti, esecutori spesso protetti, e dove se una donna stuprata si difende uccidendo il suo aggressore viene invece pesantemente punita. Yakiri è una donna che era stata incarcerata dopo lo stupro subito il 9 dicembre con l'accusa di omicidio. Intorno a lei però non c'è stato il silenzio, ma la sollevazione, le proteste, la ribellione di altre donne che hanno rivendicato il diritto all'autodifesa. Yakiri è stata scarcerata dopo il pagamento di una cauzione di 423.000 pesos, 23.500 euro, e l'imputazione convertita in eccesso di autodifesa. Ancora un obbrobrio giuridico che si applica alle donne alle quali ancora non viene nemmeno riconosciuta la legittimità piena della propria difesa. Con Yakiri per tutte, mi cuerpo, mi territorio dovunque. E per noi è molto importante aprire la trasmissione in questo modo, perché noi siamo sempre state, siamo e saremo a fianco di tutte le donne che si ribellano alla violenza maschile e contro la vittimizzazione in cui ci vogliono relegare, in cui ci vogliono ridurre. E infatti sarebbe importante anche qui in Italia, anche qui da noi, la presenza e il sostegno delle donne, cioè nostro comunque, la presenza e l'aiuto nei confronti delle donne che si ribellano e praticamente praticano l'autodifesa, perché di solito che cosa succede? Che se una subisce violenza in un modo, nell'altro ancora, viene vittimizzata, e anche ci sono tutte le strutture para-istituzionali, no? Che vengono a sostenerla. Se invece reagisce e viene trattata, compie quelli che vengono considerati atti violenti, viene trattata come una delinquente comune. E questo infatti è evidente se voi ponete attenzione sia ai percorsi giudiziari che a quello che succede all'interno delle carceri rispetto a queste donne. Allora, apriamo la prima parte. Che cosa volevamo dire, soprattutto? Della necessità che il femminismo intrecci genere e classe, noi lo diciamo continuamente. È una cosa che ci appartiene, che però appartiene anche a una lunga tradizione, e che invece sembra nel comune sentire che non appartenga al femminismo. Oltretutto, del femminismo è passato un'immagine tra virgolette non violenta, intesa proprio nel senso più ristretto del termine, un'immagine interclassista, un'immagine addirittura rispetto poi a quello che è successo negli anni 70 di introspezione, di autocoscienza, di rinchiudersi in se stessa, e quindi anche la valenza del privato che politico ha perso molto del suo significato, e questo è passato nel comune sentire. Allo stesso tempo, che cosa succede? Che nei contesti chiamiamoli così di lotta mista, il femminismo viene visto come qualcosa di riduttivo e anzi di ostacolo a quella che è la lotta di classe, e le stesse compagne che appartengono a questi contesti hanno molta chiusura e hanno molta difficoltà a entrarci in contatto, mentre il femminismo, la visione, lo sguardo di genere dovrebbe abbracciare tutto l'esistente, e non è sicuramente una cosa che riguarda le donne, come è stato detto in un incontro che abbiamo fatto per esempio questo fine settimana, così tanto per una compagna ha riportato un colloquio che lei ha avuto e che ha detto quando ho parlato di femminismo a una che faceva politica lì dalle parti mie, mi ha detto ma io non voglio occuparmi solo di donne, come se il femminismo, perché questo è il femminismo che è passato, no? Invece la necessità del intreccio genere classe è un filo rosso che appartiene alla storia nostra, quella degli anni 70, al momento attuale. A questo proposito, poi, tanto per farvi capire questa problematica che è sempre presente, no? Femminismo interclassista che è staccato dalle lotte, che è attorcigliato sulle problematiche femminili, oppure lotta di classe, quindi lotta delle compagne che non hanno bisogno e cui non serve assolutamente il femminismo, vi leggiamo alcuni brani dal libro di Barbara Balzerani, Compagna Luna. Lei l'ha scritto questo nel 98, è stato pubblicato nel 98 e adesso ripubblicato da Derive a Prodi, mi pare nel 2012, quindi lo potete trovare, è di nuovo in commercio. E, un capitolo si intitola Femminismo no grazie, e che poi invece viene fuori che non è vero niente, che non è femminista, secondo noi è un pezzo molto femminista. Prima gli uomini, sentenziava mia madre riferendosi ai piatti da riempire. Difficile ogni volta non temere di rimanere senza nulla da mangiare. Così, tanto per abituarci, noi femmine, ad aspettare e non pretendere. Sta andando a raggiungere i compagni per una riunione clandestina. Roma, come spesso accade, è attraversata da un corteo. Gira armata e con documenti falsi, e proprio non le andrebbe di mettersi a discutere con un plotone di celerini. Si ferma per capire la situazione e, con un senso di sollievo, realizza che si tratta di un corteo di donne. Difficile possa essere una situazione pericolosa, almeno finché le squadre speciali di un ministero della guerra non sono riuscite a rendere possibile anche questo. Dovrebbe proseguire, non deve far aspettare gli altri. Dovrebbe, ma indugia. Le voci, l'allegria, il linguaggio, gli atteggiamenti di sfida stranamente le legano le gambe e l'attraggono come un richiamo. Sarà per quegli abbigliamenti colorati che lei ha dovuto abbandonare per più anonimi grigetti e marroncini. Sarà perché lo strappo con le tante da cui si è separata ancora brucia. Sarà perché i cortei le sono sempre piaciuti. Sarà quel che sia. Sa di fatto che quel giorno le pesa non poco non poter essere una di quelle donne. A fatica riprende il suo cammino, secondo una destinazione diversa da quella del corteo, a simboleggiare ben altra diversità. Si gira un'ultima volta a guardarle. Sono ormai lontane, e non solo fisicamente. Sa che comunque non avrebbero granché da dirsi, ma con rabbia sente che il lutto di quella separazione non è stato elaborato a sufficienza e ancora fa male. Con rabbia perché certi distacchi li ha patiti come tradimenti e con stupefatta incredulità. Com'è stato possibile che tante compagne abbiano potuto abbandonare la politica rivoluzionaria per un movimento interclassista, elitario e di vecchia impronta emancipazionista? Il rifiuto della politica degli uomini, l'autocoscienza, la parità, le sembravano insieme una fuga verso lidi più tranquilli e, per paradosso, l'insensato riconoscimento di una superiorità maschile da eguagliare. E persino insopportabile le era quel fondo di vittimismo querulo con cui le sue simili battagliavano per il loro riscatto e si separavano nell'aggio di troppo semplificate affinità. In tutta evidenza, il suo essere comunista era entrato in rotta di collisione con l'espressione femminista dell'essere donna. Giunte allo stesso bivio, mentre lei proseguiva sulla vecchia strada, la gran parte rompeva con gli schemi della politica sociale e con ogni specifico femminile tradizionale. Le nuove donne non volevano più saperne di sacrificare i loro spazi di libertà, qui ed ora, per una rivoluzione che rimandava a dopo la loro liberazione, per una rivoluzione che, dopo, le aveva sempre rimandate a casa. Come dar lor torto? Il riduzionismo all'uno neutro universale nel simbolismo delle relazioni umane e certa specularità rispetto al nemico da combattere hanno reso un pessimo servizio soprattutto alle donne, fin nella percezione dell'immutabilità di ruolo sociale agli occhi dei loro stessi compagni di lotta. Come per una beffa tragica, la guerrigliera algerina con l'esplosivo nella borsa della spesa che riusciva a superare i posti di blocco perché agli occhi dei parà era solo una donna inoffensiva alle prese con il suo d'affare domestico, dopo si è ritrovata di nuovo schiacciata nello stereotipo che tanto aveva contribuito al successo di quella rivoluzione di uomini e di donne. Il guadagno, solo nella crescita della sua coscienza, nella consapevolezza che quella rivoluzione non era stata abbastanza radicale da cambiare anche i soggetti che l'avevano agita. Mi tornano alla mente le donne con cui nei primi anni 70 ho condiviso quelle lotte, che quasi sempre erano anche momenti di socializzazione, quando non di festa. Specie nelle occupazioni, dove il vivere insieme rompeva con la staticità del quotidiano di ciascuna e si poteva coltivare l'illusione che niente sarebbe tornato come prima. Quando arrivava il momento in cui tutto si concludeva, il primo bilancio che quelle donne facevano comprendeva sempre il dover fare i conti con l'imminente perdita di quel momento di sospensione del loro isolamento nelle quattro mura domestiche. E questo, poco e male, compariva nel giudizio politico circa il successo o meno della lotta appena conclusa, perché non toccava allo stesso modo tutti e tutte, nonostante molto si dicesse circa il portare la rivoluzione fin dentro la testa e il cuore di ognuno. Come dare allo torto? Rivivendo il disagio per il compiacimento del CE, a proposito di compagne di lotta insostituibili cuoche, infermiere e consolatrici, o per la bigotta misoginia della nostrana tradizione comunista che si è tanto poco misurata con la contraddizione interna di una cultura politica coniugata al maschile che ancora non concepisce l'essere donna, l'essere donna una debolezza e ricorre a tutele, quote e competenze ministeriali sessuate. E su questo volevamo precisare una cosa che ci sembrava interessante. Sull'ultimo numero di Zapruder, il numero 32, ci sono due articoli in realtà che parlano esattamente del ruolo delle donne nelle occupazioni, e per esempio uno di questi due articoli parla delle donne di San Basilio, che è proprio la situazione a cui si riferisce Barbara nel suo libro, della collaborazione che in realtà i compagni davano a questi comitati per le occupazioni e di quanto poi in realtà il ruolo delle donne all'interno di quei contesti fosse molto ma molto importante. E alcune delle interviste, degli stralci che comunque sono stati usati per questa ricerca, si trova proprio il rapporto tra uomo e donna all'interno comunque di una famiglia di San Basilio, che andava a occupare. Chi andava a occupare erano le donne, e le donne andavano spesso ad occupare di nascosto senza il permesso del marito, perché il marito voleva che loro rimanessero a casa. E quindi ci sono questi racconti di queste donne che mollavano il ragazzino se potevano, che ne so, alla vicina, suocera, insomma, più o meno c'era una rete solidale che funzionava, insomma, questo Barbara ce lo racconta, e queste scappavano, andavano a fare i picchetti contro le guardie per occupare le case. E quindi un'altra cosa che sempre da Barbara era uscita fuori anche all'incontro nazionale di dicembre su proprio le donne e le occupazioni è che quelle stesse donne che prima di andare a occupare, insomma, collettivamente uno stabile e riprendersi quei pezzi di vita, vivevano in baraccopoli, tentavano comunque di dare una immagine di casa, no? Di ripristinare una normalità nonostante stessero in una casa di lamiere, quindi mettevano le tendine, tutte queste cose per ripristinare quella normalità, per dare l'impressione di, e invece poi tutte queste ambizioni, diciamo, no? Chiaramente indotte, venivano, cioè si infrangevano nel momento in cui invece c'era un progetto collettivo di lotta che andava, cioè nell'occupazione non cercavano di ripetere quegli schemi, insomma, cioè si rompevano proprio quelle categorie, il desiderio si modificava, no? Perché chiaramente era un'adesione a modelli che a un certo punto invece venivano fortunatamente infranti. E comunque, insomma, sottolineare il fatto che poi alla fine a volte comunque le lotte vengono sussunte, vengono metabolizzate, tanto che entrano nella pelle delle persone, nei quartieri come San Basilio, per esempio, rispetto alla questione dell'ordine, c'è un rifiuto totale al fatto che ci siano, che ne so, le guardie che girano per il quartiere. Tuttora esistono periferie in tante città in cui quel rifiuto dell'ordine costituito, che rompe quella normalità, rompe comunque i legami, rompe comunque gli equilibri all'interno di questa esistono ancora, e quindi insomma penso che se invece venga inserita davvero all'interno comunque delle lotte un'analisi femminista e quindi il portato femminista, senza appunto scendere e cadere appunto nell'isolazionismo, penso che questo in realtà possa essere piano piano metabolizzato e diventare praticamente un tutt'uno con la lotta di classe e con tutte le lotte che vengono portate avanti. In questo portare, diciamo, la lettura femminista dentro alle altre lotte, ma anche in qualche modo in realtà per affermare che è il femminismo stesso ad essere un terreno di sintesi di molte delle lotte che invece sono frammentate e disperse, siamo anche intervenute nel dibattito che c'è stato su legalità e legittimità il 14 marzo nell'arco di quella due giorni dedicata a discutere alla repressione, che poi appunto è sfociata anche nel corteo del 15. In quella sede quello che ci ha, insomma, che intendevamo sottolineare erano fondamentalmente tre concetti. Da una parte, diciamo, quello più diretto, che in qualche modo può essere anche uno stimolo molto vicino anche a riprendere parola come femministe, quindi cioè come terreno di lotta, è quello della strumentalizzazione della soggettività femminile e in generale di tutte le minoranze, perché è una cosa che accade anche per esempio con gli omosessuali, le lesbiche, con anche semplicemente dei gruppi minoritari dal punto di vista etnico, linguistico, culturale o religioso. Questa strumentalizzazione delle minoranze noi la conosciamo bene, perché appunto per esempio in quella sede noi, ma anche in altre, parliamo sempre di tutte queste ondate securitarie, di leggi securitarie che sono passate dal pacchetto sicurezza fino all'ultimo decreto contro il femminicidio, che appunto sono state emanate in nome delle donne, per la sicurezza delle donne. Quindi sicuramente su questo primo punto, cioè, abbiamo sottolineato che noi dovremmo dare una risposta forse più forte e più efficace di quella che abbiamo dato, cioè spetta a noi dire che queste cose non passeranno in nostro nome. Gli altri due concetti, che erano invece più legati appunto a una riflessione più ampia, più teorica sui concetti di legalità e legittimità, era il rimarcare che diciamo la legalità non è soltanto quella che ti viene che ti casca addosso tramite le leggi, l'imposizione, insomma il braccio armato dello Stato, ma è fatta anche di una serie di norme che non sono formalizzate, ma non per questo sono meno obbligatorie, che sono tutta una serie di codici di condotta, diciamo, morali, etici, e che appunto non hanno bisogno della sanzione formale per essere obbligatorie. Questa adesione genera un meccanismo, diciamo, di adesione spontanea a queste norme, e questo fondamentalmente le donne lo conoscono bene, no? Quando si dice, cioè, la struttura patriarcale per sopravvivere non ha avuto bisogno di forti riconoscimenti legislativi, perché è talmente tanto radicata, è una struttura millenaria, che appunto le donne interiorizzano il comando, il divieto, cioè l'autorità patriarcale fin da piccole, e anche, diciamo, aiutate, come diceva anche Barbara nel suo libro, no? Dalle madri, dalle nonne, che passano questo tipo di comportamento. Quindi, che appunto, se si deve fare un discorso sulla legalità, sull'eteronormazione, bisogna prendere anche in considerazione tutta una serie di fenomeni che non passano necessariamente per, diciamo, la formalizzazione poi legale a tutti gli effetti, insomma, ad opera di una legge dello Stato. Il terzo punto che è uscito fuori era che si è molto insistito sul concetto del controllo dei corpi, nel senso che appunto la legislazione repressiva si fa sempre più capillare e arriva a normare anche dei comportamenti più intimi, più privati, no? Fino, diciamo, anche noi siamo abituati a un certo comportamento e il giorno dopo ci possiamo ritrovare che questo comportamento è stato dichiarato illegale. Questo anche perché con la globalizzazione, con questi fenomeni diciamo appunto di interconnessione planetaria sempre più soffocante, ci ritroviamo che noi assorbiamo anche regole che vengono da altri posti, da altre culture, e che però noi ci dobbiamo uniformare, no? Cioè tutta questa normalizzazione rispetto a questa rispetto a questo controllo dei corpi, anche qui è una battaglia centrale del femminismo, no? Che in questo senso appunto si collega a tutto il resto e può costituire un terreno di esperienza da mettere in comune e anche di sintesi, perché questo controllo dei corpi noi lo subiamo anche dal punto di vista proprio effettivo, cioè alla fine per arrivare a controllare un corpo, quello delle donne lo fanno già da centinaia di anni, ed è stato un processo che ha avuto inizio con un'espropriazione continua del sapere, del controllo sul tuo proprio corpo, cioè fino ad arrivare a paralizzarti, ad essere diciamo quasi incapace di riconoscere i segnali del tuo corpo e da delegare tutto quanto alle mani di qualche specialista. Questo è quello che chiaramente va sotto il nome del grande tema della medicalizzazione e che appunto può costituire forse una riflessione già avviata su cui partire senza andare a costruire nuove teorie, insomma, perché noi il controllo, il potere biopolitico, insomma, cioè l'abbiamo sempre sperimentato, anche se non lo chiamavamo così, cioè lo chiamavamo oppressione patriarcale e forse lo continuiamo a chiamare così. Ciao a tutte. Oltre tutto lo spazio e il tempo della vita quotidiana di ognuna e di ognuno, di ogni individuo, viene sottomesso alle leggi del capitale, e il patriarcato ne è un momento. Il capitale in questa stagione sa ed è globale, in quanto abbraccia tutte le relazioni sociali, non solo quelle classiche, il lavoro e la politica, ma anche quelle familiari, culturali, sentimentali. Pertanto investe, rinnova, rimodella, mantiene ed esalta il patriarcato. Il nostro movimento di liberazione non può che essere la manifestazione di slanci ed episodi spontanei e organizzati, piccoli e grandi, continui e quotidiani, di rifiuto, di rigetto del modo di vivere patriarcale, così come si esprime oggi nella società neoliberista, che non è altro che lo stadio dell'autosviluppo del capitale. Il femminismo, essendo rifiuto e rigetto quindi del quotidiano patriarcale, non può essere ristretto negli steccati di un mero emancipazionismo. In questo senso è un processo che non può essere arrestato né in un punto né in una fase storica determinata, ma si caratterizza proprio negli aspetti più fortemente dissolutivi e corrosivi. Il femminismo liberatorio ha insito un proprio progetto sociale, e la misura che le sue pratiche siano anticipatrici di un futuro possibile è proprio data dal tentativo di bloccarle e smorzarle da parte della macchina repressiva dello Stato e di deviarle da parte del femminismo socialdemocratico, prima che esse possano costituire punti di attrazione e di coagulo della comunità femminista e magari momenti di rottura della società tutta. La fine miserabile di tutti i tentativi di una mediazione emancipatoria, di una cultura dentro le istituzioni, indica più di ogni posizione politico-ideologica l'inconsistenza di chi legge in termini deterministici il nostro processo di liberazione. Il femminismo materialista, nell'ambito di una socialità nuova, tende a fornire una lettura complessiva delle espressioni e delle esigenze di liberazione. Il patriarcato combatte e fa guerra al nostro processo di liberazione proprio attraverso l'uso di donne provenienti dall'insieme oppresso, che in cambio della propria personale promozione si prestano a mantenere nell'oppressione la stragrande maggioranza delle altre. Siamo costrette a fare i conti con uno schema di analisi del genere che appiattisce la liberazione sull'emancipazione. È la ripetizione da parte dello Stato patriarcale della stessa operazione condotta nei confronti di altre realtà oppresse. È inadeguato dire che la rottura della solidarietà femminista sia dovuta alla venuta meno dello slancio, quanto piuttosto al ruolo fatto proprio da chi la storia femminista si presta a raccontarla in maniera manipolata quando non censurata. Il movimento femminista liberatorio e materialista oggi presenta due aspetti generali che ne definiscono la lettura. Il primo, che si innesta nella storia quella femminista, consiste nella ineliminabile presenza della critica al quotidiano. Il secondo consiste nella presa d'atto che il capitale è diventato l'unica realtà, l'unica comunità, tanto fittizia, tanto illusoria quanto reale. E questo, per trascinamento, succede anche per il patriarcato, che non occupa più la sfera di questa o quell'altra articolazione, ma occupa tutta la sfera del vivere. Il patriarcato realizza nell'ambito della società capitalista il mondo come merce e stabilisce ruoli, figure, funzioni sociali, e il fatto che si presentino diverse da quelle tradizionali non toglie la continuità con il passato e soprattutto il principio che non si ammette altro. Noi femministe invece l'accento lo mettiamo sul rifiuto della quotidianità imposta, momento reale del dominio patriarcale che si perpetua. Ciao. intanto, mentre aspettiamo la seconda parte, vi diamo i nostri indirizzi, i nostri riferimenti per rivedere i nostri materiali, per sentire i podcast delle trasmissioni, per vedere quello che scriviamo e quello che pensiamo. Potete andare su coordinamenta.noblogs.org. Invece, per scriverci, coordinamenta@autistiche.org. Push, push, kick your ass, kick your ass, kick, kick, kick, push. La seconda parte della trasmissione la dedichiamo al BAP, che sarebbe un'iniziativa a lucernario occupato. BAP, che è B puntato, H puntato, A puntato e P puntato, che sta per Beat, Hippie, Autonomy e Punk, e sarebbe una mostra sulle controculture e i movimenti autogestiti dagli anni 50 ad oggi. E si svolgerà a lucernario occupato, appunto, che si trova in Viale delle Scienze 1, dentro la città universitaria. E le date sono dal 20 marzo al 31 marzo. Noi parteciperemo alla giornata del 22 marzo alle ore 19, perché alle ore 19 l'incontro è impostato su storie di trasversalismo tra genere e lotte, incontro dibattito sulla sessualità negli anni 70 con Porpora Marcasciano. Atención, que estos son los pasos a seguir. Instrucciones detalladas que se han de requerir. Oídos bien atentos, un corazón abierto. Malena te propone este nuevo manifiesto. Y dice: uno, el pueblo ha dictado sus nuevas acciones. Se solicita el imperio su desalojo de nuestras instalaciones. Impulsado del planeta por unidad. Por traición a los valores más básicos de esta humanidad. Decreto concreto del soberano. Díselo a tu vecina, que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación, hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido cobarde tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Llegó la hora. Hay que salir a la calle. Hay que salir. Y no esconderse y hablar. Esconderse. Per noi è particolarmente importante qualsiasi tipo di incontro che si ponga il problema di recuperare la storia e la memoria dei movimenti, perché il problema della storia e della memoria, che poi abbiamo anche affrontato nel nostro incontro nazionale Memoria Collettiva e Memoria Femminista, è un passo indispensabile per che riappropriarsi della cultura conflittuale di cui sono stati portatori e sono portatori i movimenti femministi e antagonisti in genere, è una operazione che viene sempre più marginalizzata e criminalizzata. Quindi questo tipo di incontri e di tentativo di recupero della memoria è particolarmente importante. E oltretutto, proprio perché viene marginalizzata e criminalizzata? Perché fa parte dell'operazione di controllo sociale, no? Che contro tutti quelli che si oppongono alla devastazione dei territori, alla medicalizzazione, alla gerarchia, all'espropriazione costante dei tempi e modi di vita, che si oppongono allo sfruttamento, all'oppressione di genere, di razza e di classe. Quindi noi a pieno titolo diciamo che riteniamo che questo tipo di operazioni siano assolutamente importanti. E all'interno del BAP poi non c'è chiaramente soltanto la giornata in cui parteciperemo noi, no? Che è storie di trasversalismo tra genere e lotte, ma ci sono anche tutta una serie di tutto un recupero di una serie di esperienze, come non so, il 24, le parole come virus, l'esperienza degli indiani metropolitani a Roma, no? La musica, il cinema di protesta. Il linguaggio e forme di vita, per esempio il 28, che è l'esperienza di Rosso, del Male, di Radio Alice, dei circoli del proletariato giovanile, che sono tutte esperienze assolutamente demonizzate, come è stata demonizzata la storia e la memoria del movimento femminista di un certo tipo, quello trasgressivo e quello antagonista. A questo proposito, una nota a margine riguarda il fatto che non è che l'usura del tempo determina l'oblio, determina la rimozione di tutta una serie di fatti, no, è proprio un preciso processo di dimenticanza che viene perseguito, che è voluto attraverso la falsificazione dell'esperienza storica, la produzione di ricordi sostitutivi, di codificazioni fuorvianti e fraudolente. Quindi viene proposto un sapere diverso degli eventi falsificati, la loro rimozione, e viene completamente dimenticata quella che è il portato antagonista dei movimenti. Riguarda diciamo il riallacciare i fili, no, della memoria storica di quello che è stato il femminismo rivoluzionario degli anni 70, forse non è neanche criminalizzato, è proprio taciuto, cioè diciamo, no, è passato quello che adesso è il femminismo mainstream, no, che sono anche qualche anno che è tornato di moda con tutte queste rivendicazioni corporative molto borghesi chiaramente, no, di parità dei diritti eccetera, mentre quello invece che cosa è stato, tutta una serie di, cioè proprio non si sa, insomma, no, a noi che siamo venute dopo fondamentalmente, cioè anche soltanto faticoso ritrovare le fonti o i racconti di quello che è stata un'esperienza altra. Al riguardo mi viene in mente che sempre sulla memoria facciamo, per esempio, quando andiamo nelle scuole, quando stanno in occupazione, ogni tanto ci chiamano per fare diciamo delle assemblee, no, durante l'occupazione sul femminismo. Una delle domande che facciamo un po' di apertura per rompere il ghiaccio è: ma quando diciamo femminismo cosa ti viene in mente? Che è una cosa, ho visto che anche hanno ripreso le compagne di Medea e che ce l'hanno fatta come domanda sul blog e stanno ricevendo un sacco di risposte, no? Perché in qualche modo quello ti forza a diciamo fare chiarezza, no? Cioè più o meno, più che a fare chiarezza, proprio a metterti un po' in ascolto di quello che effettivamente di istinto ti viene in mente. E alla fine, con nostra sorpresa, perché ci aspettiamo sempre risposte del tipo, non so, mi vengono in mente delle donne frustrate, brutte e cattive, che ce l'hanno col mondo e non si fanno i peli delle gambe, cioè più o meno. E invece, con nostra sorpresa, ogni volta escono fuori delle, così, dei piccoli flash interessanti. C'è chi per esempio lo ricollega all'esperienza della nonna partigiana, c'è chi invece gli viene in mente la madre che ha passato la vita a stare in cucina, insomma, in un'organizzazione familiare particolarmente, no, rigida e vecchio stampo. Cioè comunque è sempre un buon modo, no, per stimolare la discussione. E sempre a proposito del fatto che c'è un tipo di femminismo, che è quello che tentava di mettere insieme genere e classe, completamente dimenticato, volutamente dimenticato. Per esempio vi leggo un pezzetto scritto da alcuni collettivi femministi che occupavano la sede dell'Istituto di Medicina Preventiva a Bologna dopo l'approvazione della legge sui consultori familiari, e dicono: uno degli obiettivi del movimento femminista era la pratica del self-help e dell'autogestione, ma dopo l'entrata in vigore della legge sui consultori, le compagne che vi si trovano all'interno fanno solo volontariato e non hanno nessun potere decisionale rispetto alla struttura e perciò nessuna incidenza politica. Noi rifiutiamo i consultori perché, lungi dall'essere una struttura realmente ed efficientemente al servizio delle donne, si configura sempre più come strumento di controllo capillare su di noi e sul sociale. Infatti, al processo di ristrutturazione del capitale, che si attua con l'introduzione del lavoro a termine, del lavoro precario, del lavoro decentrato, corrisponde una risposta istituzionale in termini di servizio controllo. È in questa logica che il consultorio non si slega da un discorso più generale sui servizi, in particolare su quelli sanitari. Infatti, all'interno di questi il controllo va dalla schedatura sulla vita privata delle donne, famiglia, interessi politici, rapporti, condizione economica, uso di stupefacenti, al potere di decidere quali farmaci prescrivere. Tutto questo fa di noi, lavoratrici, precarie, studentesse, fuori sede, non garantite in genere, oggetti di ristrutturazione e di controllo, mentre noi rivendichiamo il nostro essere soggetti politici e forza eversiva, ed è per questo che noi non intendiamo entrare in queste strutture per migliorare e potenziare il servizio dei consultori. Invece quando si parla di battaglia sui consultori è una cosa che è soltanto, cioè viene letta in chiave soltanto come una vittoria, una grandiosa vittoria del movimento femminista, no? Quando sì, invece è tutto il contrario. E poi volevamo leggere un altro contributo che è del 77 dell'AED Femminismo, che tra l'altro qua a Roma aveva un consultorio autogestito via Monte della Farina. Via Monte della Farina, vicino a Campo dei Fiori. E volevamo leggervi un estratto. È con l'azione politica di questi consultori che le donne possono prendere coscienza della funzione dei consultori di Stato e dei consultori privati, e allo stesso tempo avere un riferimento dove risolvere alcuni dei problemi delle donne: contraccezione, aborto, maternità, sessualità, eccetera, nonostante le leggi repressive e nel modo che noi riteniamo più valido. Per realizzare questo dobbiamo, come donne, liberarci dal complesso di inferiorità che ci conduce sempre nelle braccia di una qualche guida, sia questi un medico, lo Stato o il partito, e parallelamente liberarci dal populistico e demagogico concetto del gratuito. Infatti la struttura alternativa non può permettersi questo lusso, deve lavorare in collaborazione anche economica con la donna. Solo lo Stato borghese può permettersi il gratuito con il quale compra le nostre libertà. Inoltre i consultori alternativi possono agire in termini più ampiamente politici ed essere un riferimento di controinformazione femminista. I consultori programmati e finanziati dallo Stato sono organizzi al servizio del potere, finalizzati al controllo del numero della popolazione, canale di trasmissione dei valori dominanti, strumento di manipolazione delle coscienze, baluardo contro le soluzioni alternative e le prassi diverse. Questo nel 1977, e questo è stato completamente e assolutamente dimenticato. Thank you. per riaffermare in realtà questo concetto, in realtà poi di appunto assoluto legame tra Stato e poi insomma quelli che sono i luoghi che lo Stato ci concede gratuitamente per elargire insomma la sua benevolenza. E vi volevo dire quello che mi è successo l'altro giorno, che mi è arrivata addirittura una lettera a casa della ASL che mi ricordava di fare il pap test. Cioè, siamo arrivati a un momento in cui noi siamo completamente delegati a qualcuno che ci controlla e controlla quando devi fare il pap test, controlla quando devi fare analisi del sangue, ti suggerisce, non so, altre cure. Ovviamente c'è il momento che tutti devono concentrarsi sui tumori al seno, poi che ne so, il tumore alla prostata, poi la grande ondata del papillomavirus. Ricordate, certo. Sapete, ero troppo grande per quella, quindi non l'avevo. Arrivano le lettere a casa pure per questo, e sapete che vabbè, molti medici lo sconsigliano perché è un vaccino molto invasivo e fondamentalmente non è niente che non sia risolvibile questa cosa, no? Per cui di prevenzione, con una prevenzione normale, cioè appunto ti fai il pap test quando devi, insomma ci sono tutti sti vaccini che stanno là ad ammuffire sugli scaffali. Quindi cosa stanno facendo? Li stanno somministrando alle persone malate di AIDS sieropositivi, perché sono, capito, spingendo sul fatto che loro sono soggetti estremamente deboli, sono donne estremamente deboli che sono molto più esposte alle malattie degli altri, e quindi fondamentalmente stanno, e glielo danno al 50% del prezzo, gli fanno lo sconto, chiaramente non gratuitamente, cioè con uno sconto. E quindi tutta quella roba del papillomavirus, il vaccino adesso lo stanno dando a loro. Benissimo. Oltretutto c'è anche un problema che c'è una contraddizione fortissima, che sembra una contraddizione ma non è. Cioè, da una parte tolgono lo stato sociale, quindi tolgono il servizio sanitario, tolgono il gratuito, comunque anche nelle medicine più tolgono addirittura la possibilità di ricoveri, diminuendo i posti letto, no? C'è una diminuzione drastica dell'assistenza sanitaria. Allo stesso tempo ti tempestano con una medicalizzazione e un'attenzione pressante a quelle che sono le cose che tu dovresti fare. Allora lì per lì sembra una contraddizione, dice: ma come, tu mi togli la sanità e poi mi scrivi le lettere a casa che io devo fare questo, questo, questo e quest'altro? Perché sono due meccanismi diversi. Da una parte tagliano i fondi per la sanità, perché a loro in effetti della salute non è che gliene importi granché; dall'altra però mantengono il controllo, la soggezione e anche quella che una volta noi al consultorio lì autogestito a Monteraferina chiamavamo la paura. Nel senso che viene instillata, le donne sono soggetti più deboli per educazione e per condizionamenti sociali, sono più manipolabili e possono essere tenute molto più sotto con proprio la paura di ammalarsi, la paura di non essere poi più in grado di accudire la famiglia, la paura di lasciare i figli da soli. Una delle cose che spinge la donna a medicalizzarsi, all'attenzione verso se stessa, è anche una grossa responsabilizzazione che viene scaricata su di lei, nel senso che deve essere sempre in grado di sostenere la famiglia, i figli, deve avere sopra di sé questa responsabilità, e quindi è una responsabilità grave, colpevolizzante anche la scelta di non curarsi secondo le direttive che le vengono date. You got it. Perché in effetti fondamentalmente quello che il sistema non vuole è l'autonomia nelle scelte. A seconda delle necessità dà degli input e noi parliamo delle donne perché riteniamo poi che siano soggetti appunto molto più indifesi, perché molto più condizionati in partenza a rinunciare a se stesse per la cura dei familiari, per la responsabilità della famiglia, per la dedizione al partner, e anche perché proprio vengono convinte che essendo donne sono più fragili, più esposte, meno capaci di decidere, si affidano molto più facilmente all'esperto. Ma questa è una cosa che viene dall'educazione da bambini, cioè da bambini la ragazzina è abituata a essere adeguata e adeguarsi alle richieste, mentre il maschio ha molta più autonomia e libertà di movimento, e questo si riscontra poi in tutti i campi. Quello della medicalizzazione poi è un aspetto particolarmente devastante. Vi ricordiamo che il BAP comincia il 20 marzo e finisce il 31, e noi ci saremo nella giornata del 22 alle 19. E in fine di trasmissione salutiamo tutte e tutte, e in particolare chi è prima.